se non sbaglio, dico, ma dove cavolo, se succede che uno deve partorire immediatamente, uno che ha un infarto, sono un elicottero per andare a prenderlo, sennò quando arrivare al punto più vicino all'ospedale, mamma mia, però sono dei posti stupendi. Poi se ci vai nella bella stagione rimani scioccata, un silenzio, una tranquillità, un senso di libertà. Proprio quando sono salito su nel Gennargentu a Brucuspina, la Monte Spada in alto, sono andato ad agosto, una cosa bellissima, un panorama da paura, un silenzio, poi sentivi proprio bello. Una volta mi ricordo Monte Corrasi, sono salito fin su e c'era una chiesetta, però col fuoristrada, perché era una strada un po' impervia, quindi siamo saliti col fuoristrada, in due eravamo. Su c'era questa chiesetta, mi ricordo col rosone aperto proprio a tutti i venti, le nuvole entravano dentro, proprio dentro la chiesa, roba da matti, lo spettacolo che... E lì quando trovi il sereno, vedi il mare sia una parte sia a ovest che a est della Sardegna, se sei fortunato. Sì, no, sono posti belli. Poi, gli ultimi giorni di ferie sono passato solo di passaggio, ero un po' che non andavo a Oliena, sono andato a Gozolo, Oliena, Gozolo, bella cittadina con tutti i muri, e poi a Sugolomone, che è un posto, mamma mia quanto è bello quello lì. E c'era la rievocazione di tutti i, come si chiama, tipo Babarrotu, i coso, le leggende che spaventava i bambini, la mamma del sole, c'erano tutte le figure storiche e mitologiche di questo, ma bellissimo, proprio cose. Poi la gente ospitale, quello quella specie di ristorantino che c'è di lì, quel chiosco, bellissima gente, bello, l'acqua stupenda, buonissima, proprio bello bello. Io sono stata a Mante, credo, via. Sì, lì c'è fatto matrimonio, addirittura lei, i parenti lei erano di Lollove, non so se sei mai stato quel paesino piccolino, che mi sa che sono 4-5 abitanti, oggi sono rimasti. Loro addirittura hanno anche la casa ereditata dai nonni, una chicca, solo da vedere, guarda, col tetto in canne ancora, con le stufe vecchie, antiche, tutto ancora conservato, in ottime, con gli impianti idrici ancora a giorno, cioè a vista, anche gli impianti elettrici, anche di nuova generazione, però sempre con quell'impronta antica, diciamo. Là. Sì, Gianni, stavo dicendo, scusa. Che sono stato anche alla Madonna della Verve, non siete mai stati voi? Ma non mi ricordo dove, lo sai, sono stato ma non mi ricordo dove. Salendo su nell'Imbara, bellissima, Valliciona, io sono salito oltre la Madonna della Verve, sino ai punti della NATO, appunto ci sono le cose degli americani, la stazione dismessa degli americani della NATO, e soprattutto c'è il punto più alto dell'Imbara. La Madonna della Verve sono 1100 metri, è un bellissimo posto, di lì a fare scampagnate è bellissimo. Sì, allora infatti noi siamo andati, abbiamo fatto pranzo a sacco, siamo andati tutti in Grefa, sì, adesso non mi ricordavo se era l'Imbara o dove era, e vabbè, comunque ci sono stato proprio in punta in punta. Sì, sì, sono stato questa primavera, poi al ritorno siamo entrati anche lì a Lagnata, avanti Roberto. Allora, di lì è un posto bellissimo, però quando ci vai col camper mi sono, dico, quasi cagato sotto, perché c'è più di 1000 metri di altezza, per cui la pressione dei freni, delle tubature, guadagni, come si chiama, un bar di coso, cioè, di differenza rispetto al normale, il pedale ci scendeva giù, proprio una cosa, una sensazione allucinante, io pensavo si fossero rotti i freni, vai a frenare, meno male c'è il freno a mano, piano piano scendo, io sono salito in cima, alla fine col freno a mano sono sceso in prima, ho fatto circa 5 km in prima scendendo, cagato sotto perché non riuscivo a frenare il pedale, non ne avevo più, poi hanno scaldato tantissimo i freni, poi come ritorni a quota normale si ristabilizza tutto, ma detto, come faccio io qua a scendere? Proprio spaventatissimo, ero con una mia amica, quella si è cagata sotto, gli ho detto non ti preoccupare, già piano piano gli accedevo, ma ci avevano messo un'ora a scendere, in prima, proprio piano piano piano cercando di fare rallentare il mezzo, poi dalle curve, mamma mia, ogni errore, ho detto qua c'è scidrita, cazzo la macchina, perché il camper è pesante. E poi mi è capitato anche con la multipla, però con la multipla non te ne accorgi quasi niente, ma col mezzo pesante, quando c'è un mezzo così pesante, il pedale proprio scendeva a fondo, come quando c'è una perdita dei freni. Infatti io mi sono fermato, qua si è rotto la pompa dei freni, e poi invece come ritorni nella terraferma, diciamo, ritorna tutto normale. Di nuovo a te, Franco. Sì, no, io ho usato parecchio, cioè ho messo il cambio automatico, l'ho messo in manuale, e quindi gli davo marce basse proprio per evitare di usare molto i freni, non ho avuto problemi comunque, dai. Mi ricordo tanti anni fa invece un mio collega c'aveva l'Alfa 33 e lì si ingolfava perché cambiava la carburazione, credo che sia normale comunque, vero Roberto? Sì, assolutamente, perché il rapporto aria-benzina-aria carburante cambia totalmente. E non so come fai tu, se vuoi dire, se sali nella cosa dello Stelvio, che sono 3.000 metri, non so, le macchine a carburatori come farebbero a salire, soprattutto quelle ad alto rapporto di compressione, tipo i motori sportivi, alfa, eccetera. Adesso sono tutte iniezione elettronica, gestisce tutto centralina, ma prima se tu salivi con un'alfa magari di quelle, una Giulia di quelle doppio corpo, ecco, se sali a 3.000 metri non so come faceva a gestire il carburatore, il coso del genere, sarebbe un po' problematico. No, ma sono sempre belle sensazioni. E poi non so se siete andati voi a, come si chiama, dove c'è il Canyon più grande d'Europa, ma fa Napoli, come si chiama, sempre nell'Ogliastra, vabbè, ditemelo voi se vi viene il nome. Gorrupu? Sì, Gorrupu, su Gorrupu, e lì c'è la grotta di Spinigoli, di lì vicino, e c'è una stalattite più grande d'Europa, 38 metri, che scende in profondità in questa grotta, ci sono tipo delle rampe, e tu scendi a Ferragosto che ci fuori sono 40 gradi e sotto è permanentemente a 16 gradi, infatti se si tratta un po' ti devi tappare col giubbotto per freddo, però è bellissima, proprio bella, è una bella sensazione scendere di lì giù, qualcuno ha paura di cosa, di vertigini, però è bello, vi posso dire, non ti fanno fare le fotografie anche se io le ho fatte di nascosto, perché lì la luce non entra e tutto, ci sono dei muschi, hanno detto non fate fotografie con i flash perché sennò disturbate la flora batterica, perché sono delle flore particolari che si trovano solo in quei posti lì. Poi ci sono pipistrelli e tutto, però è una stalattite collegata dalla terra, diciamo, è un tipo una cupola che entri in una chiesa, dalla cupola è arrivata sino a terra, ce ne sono pochissimi di casi, e almeno in Italia e in Europa ce ne sono pochi, sono 38 metri, tu vedi questa specie di torre di fatta in milioni di anni di stalattite. Avanti, devo battere Franco. Sì, la luce artificiale fa crescere il muschio, come dico, la vegetazione, quindi è vietato. Infatti lì tu ti porti un cavalletto, che è la macchina fotografica, usi la posa B e fai belle foto ugualmente, però deve essere sul cavalletto, se no ti esce mossa sicuramente. No, ma l'hanno detto, poi anche il respiro, infatti non fanno entrare più di penso 20-25 persone insieme, perché con l'aria tua, l'umidità che generi quando respiri, perché di lì respiri un po' anche affannoso, questi microrganismi che ci sono di lì hanno dei problemi, infatti detto, non possiamo far entrare troppa gente per quel motivo lì, aggruppiti, ti fanno scendere piano piano. Vai Gianni. Io vi saluto, vai, che vado a mangiare, grazie per il questo. Comunque andando anche fuori, per dire, io sono stato alle cascate delle Marmore, è uno spettacolo veramente bello a Terni. Abbiamo trovato anche la vipera, ce l'ho bloccato, questo qui ha detto c'è la vipera, state attenti, e l'abbiamo vista sul muretto, questo qui sentiva il rumore, capito? Il sibilo della vipera. Siamo passati piano piano, abbiamo fatto un bel di strada, ma poi quando tu arrivi su ti trovi le cascate che ti vanno davanti, c'è un'arcata con le cascate che vanno davanti, bellissimo. A proposito, scusa Franca, a proposito di cascate, se volete andare a vedere le cascate a pochi chilometri da Sassari, circa 20-25 chilometri, le cascate di Martis, bellissime, di vero che fredda, fate il bagno, ma l'estate ti puoi fare anche il bagno perché c'è un laghetto, ma veramente bello, è un salto di circa 25-30 metri, l'acqua bellissima, proprio bello, poi c'è il fiumiciato, chi ha piacere di andarci, è vicinissimo e si trova facilmente. Non l'ho mai vista quello lì, no? Non ci sono mai andato. Vabbè dai, ci sentiamo ragazzi, statemi bene, e adesso bisogna che ci organizziamo qualche viaggio, dopo che mi opero devo organizzare qualche viaggio perché sono un po' che non viaggio. E io, ciao Gianni, buon tutto, vai fa. Capa, ciao Gianni, grazie alla compagnia, anche a te. Alla prossima. No, non mi ricordo, come può essere? Può essere le Quarci, il nome della cascata di Matis? No, aspetta, si chiamano, non è quello il nome, c'è un altro nome, adesso non mi viene il nome, è abbastanza lunghetto, però è bello, le trovi facilmente, c'è un piccolo sentiero, sarà un chilometro più o meno, io sono andato sia d'inverno che d'estate, anche da poco d'estate, ci sono andate, perché qualcuno dice, d'estate non ce n'è di Eva, a vedere se viene di Eva, è un bel pure, ce n'era, ci sono andato in piena estate, e poi sono andato anche in periodo invernale, verso novembre, però di lì, se trovi la giornata che ha piovuto, c'è un po' di fango, per arrivarci ti sfrutti un po'. però è veramente carino, perché c'è il vecchio mulino di coso, di lì, di quella zona lì, anche se è tutto abbandonato, no, è tutto distrutto, però è bello. Quest'anno mi avevo promesso di farmi il bagno, invece poi non me lo sono fatto, perché sono andato in altre cose, però è bello, veramente carino, non è difficile da trovare. E poi ci sono, però sono piccoline, andando a Palmadula, verso la Gentera, si chiamano le cascate di, non mi ricordo, piccoline, però sono dentro una montagna, una collina, per arrivarci se ne scende la mazza, però quando ci vai è carino. Quando sono andato io d'estate si sgorgava appena appena di acqua, poco a poco, però dice d'inverno è più, si vede di più. Di nuovo a te, Fra. Sì, io non so se hai visto quelle che danno sul mare invece, che credo che siano pochissime le cascate qui in Sardegna, forse è l'unica che dà direttamente sul mare. Quelle mi sembra siano le cascate di Ulassai, se non sbaglio, però sono bellissime, quello fa un salto direttamente dal mare, non ci sono mai andato, anche di lì dovrei andare, sono tanti posti da vedere, però purtroppo il tempo è poco, d'estate poi preferisco andare molte volte al mare. Quest'anno sono andato giù a Cosa, a Masua, che non c'ero mai andato, per vedere Bugello, ho fatto tutta quella zona lì e poi sono salito su, e anche lì ci sono dei bei posti. Non ho avuto il piacere di andare col gommone perché c'era anche il mare agitato, vabbè. Sono passato solo al volo, dai, una giornata ho fatto, perché di lì è bello sotto il coso della miniera di Masua, che ti metti e vedi dove attaccavano le navi carbonifere per scaricare il coso, il carbone, bello, tipo la Gentera, però fatto ad alta quota sulla montagna, bello. Non so se ci sei mai stato a Bugello. Non mi viene il nome, è Porto? Porto Flavia. Bravo, Porto Flavia, sì. No, io l'ho girata parecchio la serie, però a volte non mi ricordo più i nomi, neanche le strade per arrivarci, la verità. A volte andiamo all'avventura. Si chiamano Caponiedu, quelle che danno sul mare, e non sono lontane da qua, Caponiedu, però anche lì devi andarci quando, dopo le piogge, per vedere proprio il getto d'acqua che va direttamente sul mare. Se non lo vedi che è sottile, è uno spettacolo, perché l'acqua si nebulizza e vedi questo arcobaleno che fai delle foto bellissime. No, non ho avuto mai piacere. Poi ci sono a Bonarcado, che c'è un amico di quella zona lì, e mi ha detto vieni, ed è bellissimo, nel senso, molto vicino, diciamo, alla strada, per cui non devi fare neanche il lungo tragitto, perché ci sono tanti posti di cascate, però devi fare un bel di strada, tipo quelle che ci sono a Bonorva, a Parco Mariani, non so se ci sei mai stato. Bonorva? A Bonorva, vicino all'abitato, dai, fa un pezzo di strada, andando verso Remicus, se mai andato? No, non mi dice niente. Allora c'è il paese vicino a Rebecca, un villaggio si chiama Rebecca, disabitato, però le case sono tutte efficienti, c'è un ristorante, ogni tanto apre su prenotazione e fanno qualche matrimonio, c'è una piccola chiesetta, però non ci sono abitanti. Un paio di volte ho trovato forse un turista che forse sarà acquistata una di quelle case a un euro, non lo so com'era la storia, ed è un paese disabitato, tu entri in un paese morto, tipo non ti capita spesso di entrare in un paese dove non c'è nessuno, tutto chiuso, c'è una bella fonte, poi c'è una fonte pressurica, si chiama Fonte del Paradiso, boh, non lo so come si chiama, e poi di lì, proseguendo di lì, c'è il parco di Mariani, la famiglia ricca di Bonorva. Sono arrivato a un pezzettino perché c'erano le forestali, beh, attenzione qua è pericoloso perché è crollata la montagna, state molto attenti, non si dovrebbe entrare, però, ed era verso giugno, ci sono andato un paio di anni fa, e a un certo punto siamo tornati indietro, ho detto, boh, con la mia amica, ho detto lascia perdere, dice prima o poi le trovate, c'era una piccola cascatina, però mi ha detto quella non c'entra niente, andate più avanti e poi sentite il rumore dell'acqua, come sentite il rumore siete arrivati, perché è difficile da spiegare, però a un certo punto ce ne sono tornate, era troppo faticoso, c'era un caldo da morire, non avevamo le scarpe adatte, alla fine ha detto la sabbi lì e ce ne siamo tanto attenti, però chi le ha viste ha detto che è bello. No, non le ho viste, paese tipo quello che mi ricordo, Gairo, vabbè sei stato anche tu a Gairo. Passato, però non ci sono mai andato, e poi sono andato, se ti piacciono le terme, vabbè, ci abbiamo quelle di Castelluria, ci sono andati tutti, bellissimo, ti fai il bagno in qualunque periodo dell'anno, ti scegli la temperatura anche a dicembre e ti scegli la temperatura e ti fai l'acqua termale. E poi c'è quelle di Fortongiano, non so se sei andata alle terme romaniche. Sì, quelle che sono diciamo, aperte a tutti, dai, non nella struttura vera e propria. Sì, sono aperte tutte, vabbè, poi c'è anche la parte dello stabilimento, di lì, però anche quelle di Toso sono aperte, quelle di, come si chiama, aiutami, che ti ho detto prima, di Casteldoria, sono aperte, c'è il fiume sotto, ti fa il bagno, ti sei, ci sono andato decine di volte di lì, un sacco di volte mi hanno fatto il bagno, c'è gente che sono fatta a dicembre, al 31 dicembre, amici miei sono andati di notte a farsi il bagno, di lì. È un po' così, a me di notte non è che mi attiri più di tanto, però di giorno ci sono andato tante volte, ti scegli la temperatura, fai quello che vuoi, poi c'è la bella spiaggetta dietro, è bello, e di lì fanno questa rievocazione di Tex e di Zago, si chiama Zago Ormania, ci sono i disegnatori, fanno gli accampamenti degli indiani, poi delle esibizioni di tiri con l'arco, c'è un po' di tutto, non è grandissimo, però è bello, è piacevole, di nuovo a te Franco. Sì, no, quella manifestazione non l'ho mai beccata, sì, entrando diciamo dal paese, lì arrivi la spiaggetta, c'è quella specie di boschetto, credo, diciamo, non mi ricordo che piante, pini, eucalipti, un po' di tutto c'è. Cioè. Sì, ma io l'ho fatto anche io lì, l'acqua bollente proprio, ho anche pescato, cioè leggermente più giù, ho anche preso dei pesci, delle carpe, mi ricordo, poi le abbiamo rilasciate tanti anni fa, allora all'epoca non c'era neanche quel ponte che hanno fatto adesso, c'era un tubo rotto dove usciva quest'acqua bollente, perché prima le terme non erano in funzione, erano abbandonate, adesso meno male, fortunatamente sono state riprese. Là. Sì, quel tubo c'è sempre, assolutamente, poi fanno la sagra di una specie di pasta, che io ci sono andato, cioè sia il porcetto fanno una sagra del maialetto e poi fanno questa sagra di questa pasta larga, pasta grossa, tipo, come si chiama, bucatini, quelli grossi, come si chiama, adesso maccheroni, boh. Comunque tipo quella è una pasta fatta in casa e poi ci mettono questa specie di farina, credo che sia farina, non lo so, e te la danno così, rimane in bianco con questa specie di farina, te la tagli con la forchetta, tipo come puoi tagliare la pasta al forno, bello, e poi ci hanno anche la seagas eccetera, bello, e c'è una specie di chioschetto, fanno sempre una cosa musicale, degli spettacoli musicali, vengono dei complessini, però era carino, dai, ci vado spesso, di nuovo a te. Ecco, registrato il break, sì, no, questi paesetti a volte fanno delle cose molto carine, avanti break. Sì, io ti ascolto meglio, questo segnale almeno si muove leggermente l'ago, prima neanche si muoveva, Claudio, ciao. No, tu qua stai arrivando quasi 9:20, molti a Sassari non ce l'hanno quel segnale, sta arrivando benissimo, forte, si sente la modulazione, poi quando rimetterai l'MC60 sarà una bomba, potentoso. Questo è un MC60 che ho recuperato, che ho lavorato un amico, e come sta andando a te, dalle tue parti? Sì, il tuo segnale qui è quasi uno, io sono agganciato, però se sgancio sicuramente mi perdi. Sì, no, andiamo bene così, ho visto poi i tuoi rapporti che tirano le coselle, ho visto pubblicate, complimenti, veramente non capita tutti i giorni di vedere queste cose, soprattutto con i tempi moderni, magari 20-30 anni fa era più semplice, quest'anno molto più complicato, nei tempi moderni ci sono troppi disturbi atmosferici, che campi elettromagnetici, cellulari, bloccati, eccetera, eccetera, hai fatto dei bellissimi collegamenti, complimenti alla truppa, come diceva un amico carissimo, di nuovo a te Claudio che puoi fare girare per Franco. Rambo chiama! Sì Claudio, grazie. No, l'altro giorno, se non sbaglio, ti ho sentito in DX, nei prezzi dei soliti canali, dai, questi 7555 più o meno. Io ho sentito collegato anche Sud America, che non ci ero mai arrivato. Se faccio i conti, che sono con un'antenna, diciamo, sulla finestra, non è sul tetto, non mi posso lamentare. Avanti, vabbè. Sì, no, ho fatto dei bei collegamenti. Lui si è meravigliato, Claudio, perché ha fatto la Russia. La Russia, diciamo, non è facile, ma non è neanche raro come collegamento, l'ho fatto tante volte. Ma lui la cosa più pericolosa e più difficile che ha fatto la Namibia. Io non ho mai sentito gente che abbia collegato l'Africa del Sud. Stiamo parlando vicino a Sudafrica. In 27, l'unica persona che conosco che l'ha fatta è lui. Io già in base a HF ho avuto difficoltà, non riuscivo a entrare, per dire. In HF c'hai antenne, c'è anche qualche potenza un pochettino di più dei classici 5 watt o 10 che puoi utilizzare in 27, lui riusciva a fare quello, poi l'Inghilterra tante volte è capitato, Olanda, Belgio, quello li facciamo, non dico tutti i giorni, ma capita, ma di fare la Namibia, non ne ho mai sentito, vai Claudio. sì, la Russia l'ho collegata anch'io, però sui canali credo che fosse 26 400 e qualcosa o 600 e qualcosa sui canali, ci sono sempre, quasi sempre quando c'è un minimo di propagazione li ascolto sempre. Comunque colgo l'occasione per che quindi stiamo chiamando per la carica, un abbraccio a Claudio, un abbraccio anche a te Roberto, poi sono curioso di vedere come cambierà il segnale di Claudio quando monterà la J-Pol. Dai, avanti a te Roberto, salutoni ancora, tu ascolto i finalini e poi curati per me. Sì, grazie Franco Del Marchio. Ok, no, ti saluto, ti auguro una buona cena, buon tutto, una buona domenica, una buona giornata per domani, se devi lavorare, buon tutto, anche buon lavoro, è stato un piacere ascoltarti come al solito. Ciao ciao, avanti Claudio per i saluti. Grazie ragazzi, avanti Roberto. Ciao ciao di nuovo. C'era qualcuno forse che stava cercando di entrare, avanti che vuole entrare qua sul canale 10, qualcuno un po' più basso di Franco, va bene, ok, no, sono le soddisfazioni, l'antenna ti saranno dei buoni risultati, per cui va più che bene quella lì, fai come ti ho detto io, segui le indicazioni che ti ho dato io riguardo del cavo, mettilo direttamente, evita tutta quella roba che c'hai addosso, che non serve a niente, è inutile con quel tipo di radio, magari te la metti per l'altra con un commutatore in modo da dividere le due linee e sei più sicuro di non avere problemi. Dopodiché quel preamplificatore di antenna tienilo sempre inserito tu, anche se ti dà un valore non reale perché ti stai amplificando di almeno 10 dB, almeno a memoria mia, tienilo, in caso che siano segnali troppo bassi ti aiuta un pochettino. Poi se c'è saturazione magari, ma non credo proprio di avere segnali tu, dopo il 960 a quel punto lo disinserisci, non c'è problema, quello magari lo potresti utilizzare in città quando c'hai, e molte volte ci vuole anche l'attenuatore, se c'è uno a fianco a te a quel punto lo attendo il segnale, ma in questo caso tu che sei fuori città non hai problemi di disturbi di saturazione, per cui tienilo sempre inserito che ti dia il massimo di segnale. K, prima che mi dimentichi, allora devi fare in modo, se tu ti stai arrivando a 9 quasi più 20, devi inserire il preamplificatore in modo che ti dia un segnale più alto, prova a fare la prova, quello in alto a destra vicino al pomello d'accensione. K, come mi sembra si chiama Happy, prova. Però prova, adesso io sto parlando, guarda il segnale e poi inserisci quello e vedi se aumenta o diminuisce. Allora lascialo inserito così, quello è un preamplificatore di antenna, io per dire nel TS2000 e nell'FT3000 lo tengo sempre inserito in modo se c'è qualche segnale basso te lo amplifica, è come che c'è un amplificatore d'antenna TV quando c'ha quei segnali bassini in certe zone, vabbè se è un digitale non te ne vai quasi nulla, però quando c'erano i segnali analogici che erano un po' disturbati, mentre un amplificatore in un'antenna e ti aumentava di qualche dB, 10, 15, 20, dipende, in questo caso c'è circa 10 dB, per cui hai visto quanto aumenta, da quasi 9,20 arriva a quasi 9,30, sono 10 dB di guadagno e non sono pochi, soprattutto se c'è un segnale S1 un po' disturbato, attacchi quello e ti rendi conto che da S1 lo porti a S3, S4, tu lascialo in modo che i segnali siano più alti, così anche in caso di segnali deboli riesci a tirarteli fuori. Allora scusa, passo da, dimmi così ti dico esattamente quanto guadagno, guardati questo segnale e poi fai la prova con il preamplificatore inserito e ti dico quanti dB guadagno. Allora adesso sto parlando normalmente, disinserisci il preamplificatore e dimmi quanto arrivo, come due tacchette sotto, no voglio capire se guadagna 10 o 5 dB, perché prima mi ha detto guadagnava 10 dB, adesso sembrerebbe 5 dB, no, allora stai dicendo il contrario. Allora quando è inserito il preamplificatore guadagni, si dice inserito nel senso attivo, in posizione on, stai guadagnando circa 5 dB più o meno, se lo disinserisci ne perdi, quando a te ti rimandano la QSL gli devi dare un rapporto reale, ti devi togliere 5 dB, per dire arriva 9,25 quello lì, il rapporto reale, perché c'è sempre il rapporto reale, gli dici 9,20, gli scrivi 9,20, se arriva 9,10 gli scrivi 9,15, perché quell'amplificatore, preamplificatore in questo caso, ti fa un guadagno di circa 5 dB. Però attenzione, non si dice disinserito, quando si schiaccia quel pulsantino si dice inserito, hai inserito l'amplificatore d'antenna, se lo rilasci spento è il segnale diretto senza un amplificatore, tu dici disinserito quando è attivo, invece si dice inserito l'amplificatore nel senso attivo, diciamo la parola giusta, è attivo l'amplificatore in posizione on, mentre quando non è inserito è come che sia in stand by, che non è attivo. È così, adesso hai detto bene, poco fa state dicendo il contrario. Però a te quando ti chiedono un rapporto reale, quando mandi la QSL ti devi indicare anche il segnale che hai ricevuto, non gli puoi dare un segnale con l'amplificatore in antenna inserito perché non è reale. Dici il rapporto esatto è quello senza, per dire, tu c'hai 5 dB di guadagno, arriva a 9,20, tu li dai 5, li metti 9 più 15 il rapporto di cosa, anche se normalmente si mette 5,9, anche se arrivi 8, normalmente si scrive per comodità 5,9. Ho capito benissimo, tu tienilo sempre inserito e non sbagli, c'hai solo da guadagnare. Tra l'altro tu non hai segnali adiacenti, puoi dire, io quando c'erano Claudio e Coso e Antonello qua mi arrivavano a fondo scala 9,60, con il Baracchini se lo mettevo l'attenuatore saturava, nel senso, e certe volte anche col 4,40 mi capitava quando erano attaccati che saturava, dovevo mettere 20 dB di attenuazione, addirittura 9,40 c'ho 30 dB, fate da 10, 20 e 30 dB di attenuazione, se attacchi il preamplificatore guai, perché c'è anche il preamplificatore antenna come il TS2000, per cui tu non hai problemi di niente, non hai gente vicino a te con antenne, per cui lascialo sempre in posizione inserita. No, vabbè, è sempre una bella cosa, soprattutto se sono i country nuovi, posti che non hai ancora fatto, è sempre bene averlo. Poi ti ho detto anche l'altro giorno, ci sono questi diplomi, sono molto belle le QSL, io ne ho fatto quasi 500, me ne sono arrivate qualcuna poco fa pure. E quando fai il collegamento anche come SWL, in bandiera via amatoriale, ti mandano la QSL. In certi casi, vabbè, devi raggiungere un minimo punteggio, però la maggior parte basta un punto e ti mandano il QSO, ti mandano la QSL. Sono carine, ce ne sono, ti ripeto, ne ho fatto quasi 500 senza impegno, perché accendo la sera, vai, se l'avessi fatto da questo inverno ne avrei avuto qualche migliaio. Ed è bellino perché ce ne sono tante, adesso stasera ce n'erano due o tre, c'era quello Battleship della Marina Militare, poi c'era quello della Cristoforetti, che hanno fatto quello Ionospheric Test, e poi ce n'è un altro, il 150° anniversario degli Alpini, Fondazione Alpine, ti mandano le QSL. Non dico che entri in classifica, perché per entrare in classifica devi fare un bel collegamento. Io mi pare in quello dei cose, Battleship su 2000 e passa sono 26esimo, l'altro intorno sempre tra i primi 20-30 a 100, qualcuno sono arrivato tra i primi 3, però ci vuole tempo e passione. Però anche come SWL hanno una mail, questi qui tu glielo scrivi e te la mandano, ed è divertente avere anche quei collegamenti. No, l'altro giorno c'erano gli Stati Uniti nei canali classici, nei 40 canali, il discorso è che molte volte non ti sentono perché loro utilizzano potenze esorbitanti, mica escono con 10 watt o 5 watt, escono a certe volte con centinaia per non dire migliaia di watt, per cui loro tra di loro parlano dalla costa est alla costa ovest, tu magari tu li prendi di riflesso e non si sa come ti arrivano, invece loro non ti sentono assolutamente, perché anzi per loro sono molto ambite i collegamenti con la Sardegna, è una cosa abbastanza rara, diciamo, soprattutto con la Sardegna, considerando che noi che siamo più di troppi abitanti, siamo molto pochi, poi è un country abbastanza autorevole, diciamo, da tutto il mondo quando sentono la Sardegna non gli sembra vero collegarlo, magari se tu parli con Roma non gliene frega niente, perché ci sono migliaia di radioamatori nel Lazio, ma in Sardegna non penso che ce ne siano molti, per cui quei pochi che ci sono non è che siano tutti i giorni attivi, è come quei country tipo Monaco, Principato di Monaco, San Marino, Vaticano, ci sono pochi operatori e sono molto ambiti, è così. Gli Stati Uniti però li ho sentiti tante volte, ho parlato diverse volte, anche il 27, per cui non è rarissimo, la rarità, ti ripeto, quello che hai fatto tu nella Bibbia, io non l'ho mai sentita e nessuno che l'abbia mai fatto, è come dire l'Australia, fare l'Australia, non conosco nessun radioamatore, non radioamatore, nessun CB che abbia collegato l'Australia, posti difficili sì, ma l'Australia è quello dell'Africa, non so per quale motivo morfologico o di propagazione dell'onda, l'Africa anche io ho difficoltà in maniera radioamatoriale, mentre nei paesi dell'est vado più che bene, probabilmente il nostro tipo di territorio, la terra dove il campo, come si chiama, terrestre nostro, diciamo il materiale che costituisce la Sardegna magari ha un certo tipo di attenuazione o di cosa verso l'Africa, non lo so per quale motivo, però io noto che io almeno le mie antenne lavorano bene verso i paesi dell'est, devo dire quest'anno può essere dovuto al fatto delle macchie solari, non lo so per qualche motivo, magari bisogna vederlo tra 10 anni come sarà, però quest'anno i paesi dell'est, ho avuto anche discussioni con altri amici, anche con dei CB, detto che il 27 sui paesi dell'est, Ucraina, Russia, eccetera, eccetera, sono state molto favorevoli i collegamenti rispetto ad altre zone. Di nuovo, attenzione, scusa, lasciamo un attimino di bianco, ossia che qualcuno vuole entrare. Se tu hai un segnale 9 più 20, avanti l'amico che vuole entrare qua sul 10, vabbè, c'è qualcuno che gli piace ascoltare, vabbè, vanno bene anche gli SWL, se l'argomento è interessante vuol dire che gli piace, anche a me molte volte ascolto, in altre bande quando c'è qualcuno che ne sa e ti può dare delle informazioni più diciamo più dettagliate su certi argomenti. Di nuovo a te Claudio. Ciao Claudio, dai, buon tutto, buona cena, io rimango ancora un pochettino qua in stand by, se vuole entrare qualcuno, se no vado un pochettino in altri luoghi, diciamo, e poi vado a mangiare anche io, ancora un po' prezzino, e poi vediamo un po'. Dai, saluto a tutti in casa, ci sentiamo, anzi ci ascoltiamo presto. Ciao ciao! Ciao, vediamo un po' se c'è rimasto qualcuno sul 10 che vuole entrare, avanti, sul 10 che vuole entrare. Ora non c'è nessuno, vediamo un po' di fare un girello. Ora, attenzione 10, c'è qualcuno?